già maso fumata, manco ho cominciato, mamma mia. Gaia Sire, Panic Room Studio. Sono lei, aprimi, aprimi, opera di tonabazia, cazzo per la per di Dio, fammi entrare. Fumo cinegato da un impianto idroponico, faccio canne filtri a tubo catodico. Più fumo su cimoni, più mi sento melodico. Passa il nome, qua scatta il panico. Hai capito, coglione, come immagino? Resina, pesci, cosa come? Sciroppo d'acero, scivola in gola, scioglie il catarro come acido. Fumo così, non mi agito. È solo insieme a lei che scrivo tematico, temato. Fame tossica, mangio formaggio e tomato. Mille bolle da sto bang in testa, un tornado. Rappo al gong, ne giro al triotto, poi me ne vado. Tutti pazzi per Mary, canne lunghe come se sentieri. Tutti pazzi per Mary. L'unica è lei dei nostri pensieri. Una poliziotta, era una e uno. Una poliziotta, una e uno, ma è un massacro. Coltivo tra gli asporto, uscire dal mio porto. Non riesco mai a corto, ogni mese c'ho un raccolto. Ma gira il messicano, io giro un messicano. Io giro a Roma, volo in gola come un pellicano. Coltivo tra gli asporto, uscire dal mio porto. Non riesco mai a corto, ogni mese c'ho un raccolto. Ma gira il messicano, io giro un messicano. Io giro a Roma, volo in gola come un pellicano. Facciamolo.